avevi la voce così, lavavela il peggio. La serata si ammassa di più. Fino a... Vedi di qualcosa per il mal di gola, perché quella è sicuramente il mal di gola forte che hai. No, mal di gola non ne ho. Mi è andata via la voce. D'aria, colpo d'aria. O anche infiammatorio, di quelli spray ti devi prendere. Capito? Quelli spray ti... Fai una gol. Cazzo, non hai nei due occhi. O un asino in mezzo strada. Cazzo, tanti è fuggito. Beh, cazzo che bello. Prendi le macchine che sai, no? Oh. Che è un fatto importante, capo di agnone. E ho fuggitini. Fatti, qua intanto. Ci sono problemi. Come hai visto, salendo nella campagna qua, un asino, cazzo, deve essere scappato da qualche parte. Un asinello di quelli piccoli, ma bello, me, cazzo, come ti fai a pigliarlo? Ti sono buone. Io sono... è buono, mi arruggio. Io non lo gioco, me la giro per i fettini io. Sto diavolo. Stai andando a finire qua che stai, no? Che se passa il fuggito da qualche luogo. Quelle sono bistecche che camminano. Ne avrai? No. Sono un camion, un furgoncino, ok. Tanto, tanto coraggio di ammazzarlo, anche io ho coraggio di ammazzarlo, non laggio, Sì, basta poco. Ti sto arrivando ora, da Sassari. Adesso sei 9 qua. Ma gaffa, andà bene meglio. Ma è Luca, non si è più sentito. Lo carriello di Sassari del Monte Rosello. Fatti un colpo, gaffa. Scusa, non venno. Mi lo si mai niente, a bocca piena. Oh, sarà nanna. Prioro, popolo. Non si ascoltano. Attento, bombo. Non venno. Chi ci voleva si mai niente a prendere che cosa. Ma sei un barabescio, Luca. Adesso sei in campagna, non venne il barco. Oh, ehi, me ne sono cazzato, vabbè, ci sono arrivato tutto. Sono a Sassari, adesso cerco un bar aperto, mi prendo una bella birretta fresca e me la becco. Ti faccio una sedia e non vai a te. Ma sei tornato a Sassari? Sei tornato a Sassari? Cava, Elia. Qua la rotatoria di Lattidossi, so come, girando per via Pascoli. 9:10. E Claudio non si è andato montato l'antenna. Dizia che ne ha arrivato di cavalli, sta matto, va sempre in chili. Ormai che ce ne è radisi ieri, di antenna. Quasi pure le figliori. Attenzione, qui Zebra 1, break sul canale 10, gaffa. E tutti i drommi, diciamo. Chi qua questa voce? fare una cosa, ma non sia, ma lui era otto. Non si guasta, qua, gente guasta. Io qua, tanto Camerruccio, se vuoi fare una serata di quelle hard. Ma magari, da. Mi la faccio a lui come un tanto. Faccio di questi discorsi. Comunque provare il percade non te lo posso dire perché sei maschio, se no te lo avrei detto. E meno male, abba, e meno male che sono due che non mi faccio, ma non è dice, lo sapevo che mi dice, sono costretto, no, mi sento di educazione da fare la mamma. Quindi, no, io lo so, nel senso che non ne ama, era sempre in modo. No, non mi piace il viso, Carmelusso, sinceramente, non è questione di quello che hai detto tu. Non mi piace il viso come donna. Poi di corpo magari sarà anche ben fatta per l'attaccheggia, però il viso non mi piace, punto. Preferisco Valeria Marini, una donna più fresca. Ma guarda, io preferisco tutti e due. Tu sei femmina, ragazzi. Ma cosa? La cara, io tu sei femmina, ragazzi. Ma io ho sempre fame. Ho sempre fame. È una cosa che mi nasce. Così è. Sono quelli che non mi dicono. Ho fedele, però ho fame. Come tu? Vabbè, comunque è una questione di gusti, a me non piace, punto, non voglio puntualizzare. Gerpa. Paolo. Tu diciamo che se ne frega di tante ragazze. No, non è che sia questo granché, però non è neanche brutta, è una bella donna. Se avrà fatto quello che ha fatto, chi? Però una bella donna, se ne frega di donne che sono qua, ci rimane in busciacca. Perché cosa facevo? Fino in porta. Rifatta già. Ah, rifatta. Se no, non so cosa sia fatto. Però diciamo, per l'età che ha, non so neanche quanti anni ha, 50 anni. Non lo so, ma è grande di età. Sia lui che il, lei che il marito, sentite granditto. Ma no, ma comunque. Cioè, sono più giovane, mi piace. Ti dà un'occhiata lì, e dico, mi fa la, te ne scende la bocca dalla bocca. Ce ne sono un bel. E tutte. Tettone, tutte. Non è una che. Tutte scollate, ecco. Sì, perché cercano apposta fare queste, questi programmi, eh. Le vogliono così. Preferibilmente per attirare l'attenzione. Io mi prendo la Usic. E a chi male? Non ti esibuti di quattro circuiti. E tu lui, Camerruccio? Lo senti di lui? Ma chi è questo guasto della cantante? Sempre lo stesso. No. Ah, no, non lo fa per cattivia, dai. Non lo fa per cattivia, ma non ne frega niente quella. Non c'è problema, a me non mi disturba, perciò, non problem. La, tipo, quindi devo stare qua già, adesso vabbè, non c'è la TV di fronte, però ora sta avviando, sta entrando in doccia, cavolo. Cosa ti dico? Le donne sono tutte buone, se sono belle del cazzo. Ognuno si sceglie quella che gli piace di più. Infatti. Figare su conto, Iua. Era mi chiede, non ti chiama, mi scelunzi che. Quella è una bella ragazza lo stesso. E che insomma, ce n'è una qua, cazzo, che è proprio bella, bella, fatta bene. Sarà brutta, ma è rifatta, però è fatta bene. Va bene. Poi c'è coso, Maria De Filippi. Quella te la lascio, quella te la lascio, non la voglio Maria De Filippi, no. Proprio l'unica che mi ha tippato è che è lei, Sì, non è così, no. Io calmo il russo di lei, 100.000 volte meglio. È un travestito, questa volta. Mi ha detto che non le piace calmo il russo a lui. Gianni, buonasera a tutti. Ma io per Maria De Filippi preferisco la Uzzic. Aspetta, lui, quando ti arriva la portata del CR10 con la musica? 9:20 ce l'aveva la musica, 9:20. Non passava nessuno da te, vero? Confermi? Confermo, sì. Vieni. Detto che era quel signore di su? No, non gliel'ho detto perché quando l'ho chiamato c'aveva la mamma che era andata su, capito? È andata su. Morta adesso. È morta, così ha detto che c'aveva il funerale della mamma e allora non si è fatto niente. E non ho parlato per niente con lui, era morta la madre e allora niente, ci dobbiamo sentire in o domani o dopodomani con quella persona lì. Quando vuole, già. Sì, già. Già. Già. E beh, è finita la musica, si dice, io sono passato. O c'è ancora? Tutti due. Sì, fizza candro bitigegna. Che là ci passaggi così lunghi, così se ce ne scomposto in giro lo becca subito. Ma è un somaro, quando uno sa più di somarone. Questo ci prende a far sentire la musica agli altri, se la vuoi sentire se la ascolti lui. A parte che non è di gusto mio quella lì. Se proprio devo ascoltarmi musica, mi metto un bel disco di vinile e me l'ascolto come voglio. Infatti, quello è fatta pura. Tutto di corda. Infatti, bara una matracca. Quando così lo racconti, ascolti noi. Non racconti niente quando così. Quello deve essere il mazzo della città. Beh, ognuno ha le sue fissazioni. Ogni matto ha le sue fissazioni. C'è chi è fissato con la religione, c'è chi è fissato con le rotture di scatola, come questo qua. C'è chi è fissato col sesso, c'è chi è fissato con quello, ma sono tutti scimmie. Adesso guardo male, sai cosa mi è successo? Che mi sono addormentato con le cuffie già. E l'apparato acceso. Intanto poi riprendo, quindi ho detto lo lascio acceso. Allora, come ha messo questa musica, mi ha svegliato di soprassalto. Ehi, va bene. Ciao. Sandro. Ehi, di qua la nocceneria sono. Ehi, a quanto è arrivata la portante? Ma aspetta un attimo che torno al 10, che guardo. Cavallocci. Ui, aia. Casino, ragazzi. È un bel casino in Germania, KK. Sai che cruciamo con la musica? Ascolta, mi arriva Robe comunque quella cazzo di musica. Robe? La passavo io. Ehi, tu sei quasi 9 lo stesso, no, non la passi, no, ma giù. Non lo so, prova ad andarci, io ve li rompiamo il cazzo. Sì, ma tu non passi, però vai. Mi vedi se mi ascolti, vai. Ehi. Sole. Sì, ma non la passi più forte di te. Io la passavo bene. Papà, e gli proprio il parri sopra alla grande, io sono in un posto anche al lunessone dietro dei palazzi, mio. Ma non vai, ascolta, vai al 10 a vedere. Gatti, sì. Lucariello, Lucariello, mi senti? Guarda se mi senti adesso. Yeah. Comunque non passo, o no? Adesso sì, ma non c'è più. Chi è che mi chiamava avanti? Lucariello. Chi è? Pizza. Ma che è qua? Ascolta, Lu, fianco un secondo, dai. Sì, assa. Berri. Ma tu vedi che mi stanno portando? Come? Qua, tu e io? No, ero al 12 io. E siamo scappati qui perché c'era questa musica, anche se a me a Luca non ci faceva nulla. Però non era lui. Non era lui. Ho capito, no? Quello di Stefano che... Ho capito. Scusando, quello di Stefano mi troppo preoccupato, quello che gli ha dato Luca. Con l'apparato di Stefano. Ma Stefano dice bene, tu la tua voce no, è proprio pannasina. Pannasina pure perché sono ben raffreddato. Ma io ho già detto io, lui non lo porta bene, lì. Stefano porta benissimo l'apparecchio. C'è un segnalone, mannaggia la miseria, ma arriva 9.30 a me. Con quelle. Però radio non la sento forte squillante. Attento Gigino! Ma chi è questo? Stefano? Ciao lui, Stefano, sì. È tutta un'altra musica, Stefano. È tutta un'altra musica. Ma mi arrivi con un segnalone, dove sei? Perché il segnale è molto alto, A Marchetto sono, lui. Senti, si addice a te quel microfono, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Lei esce bene con quello che c'è a casa. Con quel microfono, quell'apparato là, che c'è a casa. Quello c'è una bomboletta, ma con questo no, è un po' nasina. Sì, lui, ma è sempre stata così, sempre così, da quando l'abbiamo preso. Positivo, no, sto dicendo, con te c'è meglio quell'apparato, va benissimo. Eia, eia, avanti lui, aiuto. Luca mi sa non mi ascolta. Dai, una volta già. Ehi, non lo senti a Stefano? Stefano! Ah, già mi senti allora! Ehi, no, non c'è spostiti, Santiago Otto, sì, qua. No, stavo chiamando a Giovanni poco fa, già. Cazzo, che ti fai così? Devo andare al canale suo, No, che l'ha detto che stava cambiando frequenza. Ma come? L'ha detto che stava cambiando frequenza. No, ma lui ce l'ha detto, però. Infatti ho detto Gianni passa dal 10 a Luigi, ecco fa. Andà bene. Ma dove sei Stefano? Adesso sono quasi a Platamone. Ehi, già arrivi qua. Mi ascolti, sì? A voglia, di lusso. Cappa, a me finita le file, là, la girata. Scacciato ti hanno. Sto per riandare, a te la finisco dove eri tu. Scarcerato. No, mi hai dato un po' di libera uscita. Ah, ti ho dato un paio di giorni di permesso, Stai, cosa c'è? Ti giro in camper. No, è camper niente, non è tempo di camper ancora. Sì, già era bella giornata oggi. I miei amici miei mi hanno chiamato per andarcene in giro, ma c'era Marcolino che c'era compiti, sembrava all'università e competiva di busto. Anche noi siamo tutti mezzo malandati, comunque. Basta aspettare Alessandro, se mi dà una risposta, se vuole scendere a pescare. Oggi stessa che cosa sarebbe stato bello fare? Andare a Ricci, subito al mare, mangiare Ricci. E poi al Ghero c'era la sagra, però si paga 20 euro, mi pare, ti danno 5 Ricci, un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Ora c'è al Ghero. Penso di sì. Sì, oggi c'è. Penso che ci sia. Se l'hanno offerto tutti i ricci. Ma che c'è ragazzo? Tiro dritto e scendiamo a Ghera per un piatto. Ma si paga un bestia. Più volte ne paga l'entrata. Non ne vale la pena. Eh, volta c'era ragione. Certo, mi pare che l'altra volta volevano 10 euro e c'erano 5 ricci, un pezzo di pane e un bicchiere di vino. E fra già 25 minuti. Sì, i 5 ricci mi servono per vedere che sono buoni. Se me ne mangio 5 per assaggiarli, non puoi riuscire a mangiare. E infatti, ma conviene ste entrare e farceli. Io un anno siamo andati a Portoferro, mi hanno portato gli stivaloni, quelli lunghi lunghi, e ci sono io vivo, e mi dici, ma belli grossi, eh. Ia ia. E me li ho fatti lì, ma li ho mangiati lì. A mangiarli contati non mi piace, perché sono ingordo, mi piace mangiarne tanto. E altri ricci ci abbiamo mangiato anche le patelle, non solo i ricci. Paga. Va bene, dai. Se buona girellata allora. E voi passaci, lo sai dove sono, sì? No, non lo sono. Esattamente di fronte al porto, lì mettono dei tendoni, dei gantelli, roba del genere, e sono lì dentro. Fanno la sagradice, ma c'è un po' di tutto, mi pare. C'è come l'anno scorso, c'è anche musica, c'è di tutto. Cosa? Ehi, dimmi di... Ma dopo che ti fai quel giro lì a Platamona, cosa fai? Ti prendi il gelato, ti fai quel giro lì ed è una cosa viziosa. Invece se vai al Ghero vai per una sagra del Ricci, poi ti fai la passeggiata che è molto più lunga, e vai al Ghero Vecchio a guardare i negozi. Sono cinesi sempre. Più là, che qua, è tutto titolare. E bar di Bocunito, accetto. E lui è troppo togo, ci manca il midollo. Adesso è una bella giornata, oggi facevo uscire in moto, infatti l'ho detto alla Natalina, io che andiamo a farci un giro, ma ho detto, oh, non il video, no, dopo fa subito buio alle 5, ma le giornate stanno allungando adesso. E beh, la gente furba fa così. Noi siamo segregati a casa oggi lì perché a Marco gli stanno mettendo tanti di quei compiti e non riesce a farli curare, questo qui si perde qualche esaurimento. Ma se i compiti che li mettono, anche 5 pagine di roba solo una materia, poi l'altra, poi studiare la poesia, poi fare questo in prima. E non c'è più gli spazi per giocare, i bambini prima elementare hanno bisogno anche di avere lo spazio per giocare. Stamattina me l'abbiamo portato in piazza vestito a maschera e poi come siamo tornati a casa è subito attaccato a fare i compiti. Ehi ehi. Luca riprendi e fai girare, dai. È rimasto? Ale ci si. Sì, anche stamattina. Pedarella, Pedarella. Eia. Bucca, guarda, sta chiamando Ritta. Aspetta, Ritta. E basta, basta lui, QRM5. Avanti, io dirà che ti sento io bene. Io sì, che ti sento bene. Ah, ha detto che deve telefonare, buh. È bello a pescare, se siete a pescare in... Tanto ormai, guai, io era piatto, bello già. Addirittura dove ci mettiamo noi, era appena appena, proprio un pelino... Però è l'acqua si muoveva, poi dall'altra parte, dove attacca la terrina lì, era piatto, piatto, piatto, ma proprio guarda, bello, bello, bello veramente. E voi dove avete pescato la rappata della Tirrigna? No, sul muro eravamo, e poi ce ne stavamo andando, c'era un signore, non so dove, che se ne va sempre lì a pescare, poi c'è sera, una roba lì. E com'è, con i baffi lunghi? Ehi, guarda, c'è tu sì. No, no, quello che di qui c'è la punta bianca. Ce n'è uno, signor Salvatore, che è un bel bravo, a pescare pesci serra e cose barracuda. Ma vedi che pesci, ne ho accoppato certi allucinanti, ma ne faccia di blu un coppo. Ti sto dicendo che salta dal coppo, da quanto è forte, è barracuda. Era una questione di fortuna anche già. Adesso per esempio, a me è capitato l'anno scorso, lanciare col pesce... con la sardina erano dei piccoli piccoli là. Mi è partita la canna da pesca, non me ne ha fatto, me ne ha fatto l'esca, però non, niente, mi ha fatto la vostra sfiscia agganciata e l'ha spaccato un amo. A me invece la sugherella mi ha, come ho lanciato, mi è partito il cucchiaino, miun, ho detto ma cos'è questa cosa? Corrente non può essere troppo in fretta e partito, l'avevo appena posizionato, poi lo riposizionavo e ripartiva di nuovo. Ho detto che cacchio, ho preso, guardato la ferrata e c'erano di quelle sugherelle, ma bella, mi aspetta. E il bello che mi avevano detto, beh, io ho detto, pescata, avete usato, buttato la sera, avevo bombillato un pesce, cazzo. E loro hanno detto la frase famosa, mi nomi Gianni, divido a pigliarsi un pesce, pigliando in giro, e tanto ha giovuto di avviso. Capita, questa è di fortuna anche, dipende. Dipende, vedi, io per esempio quando vado lì a pescare, faccio la pesca della dorata, con la cozza. Molte volte stai lì, bomba, non ti parte mai. Il giorno mi sono spostato a verità. Tanto il giorno, meno male, vabbè, c'era la frizione mollata, c'era l'archetto appresso. C'era la dorata attaccata, poi ho fatto sempre l'incrociata della dorata, così per sicurezza. Ti posso garantire, anche se era volata da 2 kg, guarda, non mi hai dato problemi. Dice quello lì, boom, basta, ne butto le braccia, ma cosa, ti buca da in 5 minuti. Ma era vicino. Dopo la seconda vita. Vabbè. Dipende anche, magari la stanca. Se la stancata si trova, a volte c'è, cosa succede? Che tirano piano piano e tu manco ti inabiti, magari si fa bidetti, loro si posizionano l'esca, tutto quanto, girano attorno, la muovono, la fanno, tu non ti inabiti, poi piano piano tirano e cose, quando poi si vede impigliata, allora tira di colpo, mettere più a cogliere lì, come della sezionata, come si vede fregata, allora tira. Ma la è furba, perché quando prende la cozza, così mi hanno detto, qua si gioca, sembra che è tranquillo, che non c'è nessun problema, l'aggancia, la spacca, poi va, ma molte volte ti sputagliavi, è furba, poi ci devi stare attento, che quando la spacca, poi va a mangiarsela, da lì devi iniziare, quando ti vede il segnale appena sta partendo, va subito. Vai la bicicletta. Ma se non ha ancora spaccato la cozza ne scintilla la bocca, la sputa, e poi che l'ho, se ne lo so, si la gira, la rigira, la posiziona, la fa, anche col verme fa così. Molte volte la trovi, c'è un po' di fame, va subito, sì, quando l'ho preso, è un po' di fame, non va. perché poi quando va per terra vuota, cioè qua niente nello stomaco, nulla. Invece messara con l'ombrina, che ti posso dire, pescimacco, il gozzo, il ghiozzo, che sarebbe, come si chiamano, lo maccione, quello che chiamano maccione si chiama ghiozzo, quello lì si ingoia tutto, anche lo scorfano. E i pesci del passo direttamente si inguinano tutto perché ho la bocca più grande del pesce. Molte volte dipende già. Ma è la truffa così che non è abbia tanta fame. Poi dipende, dai, dipende. Anche questa è di fortuna. Perché là ti posso dire, io lo lancio in un punto, tu lanci, cosa ne so, attacca a me, lanci dopo 2 metri, 3 metri, io la prendo e tu no, ma in quel punto l'ho buttato e ci sono rate, ci può essere branco, ma c'è la parte tua, no? E così è stato, infatti prima l'ho preso a Franco il giorno, 1,2 kg, e dopo appena sono preso io 2 kg. Lui, ma il pesce non sta fermo, si muove, quindi come volate può andare anche da me, capito? È quello che c'è, no, a stare fermo non stanno fermi, non solo che vanno dove c'è da mangiare. Se però l'orata si accorge che c'è qualcosa che punge, non torna più in chivi, scordate perché non è bilibili. Infatti una l'ho punta, se n'è andata, la ci togliamo in bocca. Mi è partita la canna, c'era quella canna di Franco, era il numero uno, ma l'ha fatta, puntata. E poi da lì, non so cosa è successo, si è puntata, ma comunque era una bestia, era una bestia. Lì sono tutti grossi i pesci, quelle bite, come le chiami tu. Si chiama Vasconi, no? Comunque sembra che ci sia l'allevamento, sono tutte grosse cose lì, e sotto quella, visto quella gru che c'è dove caricano le petroliere lì, quella specie di ponte, di pontile che c'è, da lì si mettono quelli della sera a peccare, le bigliere dei pesci. Già, no, le bitte sono, quelle dove appoggiano le navi. Ho capito. E vabbè, dove attracca il coso, il, come si chiama? La corda della nave, dai. No. Ah sì, è lì comunque, dai, ma è così che ci sono qua appoggiamo le navi. Questa è una vita. Comunque adesso tra poco inizia il periodo. Solo che in Kiwi è un casino. Ti acciappa lì, ui. Uno che veniva sempre a pescare dove pesco io, dove pesco anche le seppie, mi ha detto che l'hanno beccato. Prima una volta e l'hanno lasciato andare. E la seconda volta gli hanno messo 1200 euro di multa e gli hanno sequestrato tutta l'attrezzatura. E questo mi ami. C'aveva una canna Italcan, c'aveva delle belle canne della Daiva. Non fu danno il piloto tutto. Stanno allungando le giornate già, vero? E allora, infatti a Natalino gliel'ho detto, andiamo a farci un giro in moto, che era bello lui andare in moto, per fargli girare il motore, per non lasciarlo sempre fermo. Invece non c'è voluto venire. E infatti mia suocera mi ha attaccato le chiavi del garage, mi ha detto portala su, e la metti in garage, già la lasci a fare lì, e fa dei gas. Ah. Vabbè, guarda se ci siete ancora. Io ti sento, ridimmi, dove siete? Dove siete? Perché sei proprio in mezzo al QRM. In che zona siete, Ri? Ah, Porto Torres, sei dove? Che dire sul muro se c'è gente per scambio? Luca è stato andare a controllare se sul muro c'è gente pescando. Ehi, c'è una bomba lì. A mettere la bomba. Luca, non mi sento. Ah, su Siri, come sei fatto? Ah, sì, ti ho sentito, Mi è arrivata per un passaggio quasi 9. Ma oscillante il segnale, a 7, a 5, sale, scende. Ma da me no, da me è sempre basso di segnale, la radio solo sempre. Scappo. Ti piacerebbe, tu sei invece di mia moglie, se per viaggio vuole andare. Già glielo fa il dispetto andare a Roma, glielo piace di bomba intanto. No, ma sì. Noi siamo andati due volte perché in una mattina non ce l'abbiamo fatta, siamo andati troppo tardi e non abbiamo visto tutto. Poi siamo ritornati il giorno dopo, non abbiamo visto tutto proprio perfettamente. E a mia moglie c'era un orangottango sull'albero, all'entrata. Se ne è sceso dall'albero e si è abbracciato a mia moglie. E mia moglie, ma già mi aiuta, aiuta, tu stai fermo, non fare niente, già non ti fa nulla. Se l'ha abbracciata, l'ha carezzato la faccia, uia. E un orangottango di quelli grandi. E poi lo volevo fotografare ma non ce l'ho fatta. Poi ha preso e se ne è risalito sopra l'albero. Dentro il porto industriale. È grande. Io sai cosa devo andare a vedere. Cosa l'acquario di Genova. Lì sulla tua. Intanto sulla tua destra, vai. Il mare sarà piatto, vero? Confermi. Bellissimo, uguale il mare, bellissimo, veramente bello. Vedi, quel punto ti sento, Santiago Nova è qua, eh. Allora, se tu hai una roba di 10 persone. No. Come? 2 persone ci sono, sono nudo. Non di 10 persone. Eccolo il nudo, adesso ti avrei arrivato, grazie. Sai cosa c'è lì? Quando scoprono che sta mangiando, allora arrivi tutti lì sopra lì, tutti. Beh, ma ce ne saranno anche sopra le rucce. Non credo che siano tutti lì. Perché se siete sul muro non ci vavano nelle rucce. Comunque è più di gente, anche dove vi eravate messi voi l'altra volta. Ci saranno un fisici di macchina. Secondo me, boh, io l'abbiamo provato ma neanche l'ombra. Non sono di orate, ma neanche di sanaghi. E comunque stanno toccando come stavate toccando voi, cioè la canna in testa. Con? La cartella sul periodo per tenerla. Sicuramente stanno facendo, stanno calamari, così. No, ma calamari no. Vabbè, il cavalletto è quello, con grazie alla canna da pesca. No, sicuramente lì hanno lanciato per prendere qualche orata, oppure qualche pesce serra, dai. Ricordati te che per il calamare bisogna stare sempre girando il mulinello piano piano, non puoi lasciarla così la canna, non mangia così. Deve vedere muovere il pesciolino. Chi è te? Ah, Teresa gli ho detto, invece c'è che è Rita, lui. È suonato, sono. Basta che dorma, divento suonato. No, io ho dormito, poi quello lì che ha messo la musica, siccome sono addormentato con le cuffie in testa e col baracchino acceso, come ha messo la musica mi ha fatto svegliare a palla. Non è una novità che tu ti addormenti con un baracchino acceso, eh? No, non è una novità, no. Oh, yeah, yeah. E mortacci tua, ci ha tenuto le cuffie, vediamo un po'. Perché secondo dove si mette, Rita, la sento benissimo. Aspetta, vediamo un po'. E si va, Rita. E in cuffia, bassa a bassa. Lì c'è un punto buono comunque, mi sei arrivato a Santiago 9, però non so dove sei di preciso. Buraglione l'entrata lì. Ma c'è, qua ripeto, mi è arrivato un segnale di NOF, non so dove che punto era. Probabilmente è proprio l'entrata che ti è arrivata così, perché è più libero per Sassari, capito? Ai ai agaba, va va va. Ehi, è rientrato. Già rientrato. Abbiamo sentito mezzo di sette. Ah, mi intendite? Bene, lo imito. Devo farti rimettere a posto il PC. Basta per questa persona l'ha portata. No, adesso ho sbagliato io, già la faccio CV doppio, va a fare la cuffia, raga. Vabbè, la togliamo, togliamo la parola, da. Ho sbagliato un foro. Ok, CV doppio pure c'è. Sì, sì. K-gap. Anche il Ranger ce l'ha CV doppio. Ma c'è un dubbio è dove fanno telegrafia, no? Senti. Quel portante lì non sta acceso. C'è la batteria scarica e fa un bip. No, ma sei sudato. Beh, da casa, beh, ci va, da casa di quel mio amico, quel microfono che mi si era imballato, che abbiamo, cioè, ho tagliato un pezzo di filo perché era andato in corto un filo, si era spezzato sicuramente in un punto, meno male che era all'inizio, ho tagliato e l'ho rifatto l'attacco, però che l'ho fatto diverso. Va benissimo, sono qua, una bomba questo microfono. Sarebbe attaccato sul baracchino mi cudi. Come? Ce l'ho per a casa quel microfono con il mitra, quello che mette in macchina di mia moglie. Mi cudi ne ha giudito perché spatterò, faccio TVI sicuramente, perché quel microfono l'ho voluto sentire apposta. Ho mandato il figlio, guarda giù, ha modulato lui, via, ogni radio. Conosciamo bene. È questo allora, ci do questo, guai. Quello è quello che mette in macchina di mia moglie. Solo che non me l'ha mai detto nessuno che era così forte, boh. Senta, io quanto mi offri per questo? Sentiamo, eh. Cosa? Quanto mi offri per questo più 4? Nuovo, eh? Niente, perché non saprei dove mettermelo. Però è un bel microfono, niente da dire. Questo qua va bene anche dove... Quello che stai usando adesso, vabbè. Innesca. Questo qui con mezzi volumi innesca subito. Perché è troppo forte. Anche se metti il panascolto alto. Subito. Basta eliminare il panascolto e non innesca. Non tutto ci può avere la moglie rimbriaca, la cuba piena già. Ma è quello che mi piace, a me piace sentirmi come sto uscendo, capito? Così nessuno mi può dire, se uno per dire, o per cosa, per gelosia, la gente ti dice che stai uscendo male, ti senti come stai uscendo. E allora si canta. Ma quello che è vero, eh? Perché molti ti dicono che stai uscendo male, che cosa stai uscendo bene, non è giusto. Io dico sempre la cosa come è vera. Se io ti sento pure che esci con un fischio, ti dico stai uscendo col fischio. Se stai uscendo bene, però ti dico che stai uscendo bene. Perché ti devo dire che stai uscendo col fischio, a farti ammattare a Lugavo, come hanno fatto con me una volta, mi hanno fatto smontare il microfono in mezzo a strada, tutto quanto. e dopo non la vedo, mi ha detto, va, mica stavo scherzando, fanno una iaia. Boh, cazzo, mi stai che volevamo una ripuscia, tu mi hai dato una ripuscia, Alessandro. Posso stare a casa, mi dia una rottura di balle, poi ci puoi rilanci. Ehi, è vero. Io ce l'ho una canna piccolina piccolina, la barca, ma lì ta fare, oggi ta fare, se c'è sta con la gente cosa fa, ti incagli uno con l'asso, non farlo. A me quando vado a pescare sarò egoista, quello che vuoi, mi piace la solitudine, mi proprio stare nel silenzio, tranquillo, che non ci sia nessuno. Vabbè, ma anche là mica c'è una casino. Io ho capito il punto dove vai tu. È una fesseria andarci, lo dico qua perché se no poi da tenuto in chi. Io lì ho sempre pescato, non posso dire di aver preso dei bei pizzi veramente, e ti dico che è uno sbocco praticamente da dove entrano le barche, l'unica rottura è quella, che entrano e escono barche, poi se vai di notte non entrano e non escono, te lo assicuro. Quindi può uscire un peschereccio, ma una volta che sono usciti i peschereccio sei tranquillo, non passa più nessuno. È praticamente lo sbocco che va verso fuori, capito? Sì, forse ho caduto, ma trovo la macchina nuova, vedi? No, no, non è lì. Non è lì. Ma cammina a casa, vai. Tu di grazie, la domanda di casa. Sì, vabbè, dai, più o meno da comunque dall'altra parte. Più o meno, noi ci sono molte barche comunque, dai, avanti. E barche ce ne sono, lui. C'è un meglio di tre barche. Dove stanno peschidici? Sì, ho capito dove. Già un capretto, già un capretto. E adesso andiamo a fare... Come si chiama? I datteri di mare. E io ci sta cattando nella resa di giù. Tu mi hai detto che una volta gli eri andato con Franco e aveva preso un polpo, te lo ricordi? Ehi. E via. Non c'è da sbagliare. Ma si incaglia un bel con anch'io. E se non si lancia, le sì. Se sei punti non si incaglia. Ma tu mi hai detto che ne hai perso un bel totalare lì. Sì. Ah, totalare sì. Però prende anche 6 lì si incaglia, è vero, però ci sono molte simili. Devi sapere i punti dove ci sono le luci, recuperando si trovano due luci. Ma io lo so perché affondare la mai, a furia di perdere tutta male l'ho capito com'è. Beh, sembra luci, ma cavolo. Cazzo, quest'anno già ne ho perso tutta male, mica. Un bel ne ho perso, A quota 10 sono, è normale però che si perdano anche gli ami, i piumi si perdono pescando, però se c'è la roba, capite che una volta io quando ho scoperto dove c'erano le seppie ne aveva preso 12 quello lì, 12 seppie, una più bella dell'altra. 12 seppie? Sì, 12 seppie, sono seppie lì ci sono, seppie, polpi, qualche polpo. Ma la maggior parte sono sì, per calabari non ve ne. Vabbè, non si può mettere uno straccetto bianco nel totale per il polpo. Sì, si può fare, tutto si può fare. Ma il polpo devi scovare. Devi trovare, sapere dove la tana, o avere un matto così grande per prenderlo da me. Vabbè. Rita, dove sei? Rita, mi ascolti? Eia. Dove, Rita? C'è la granaia. Adesso puoi fare il lancio, Rita. Thank you. sono abbandonato, via. Proprio tutto Porto Torres. Tutto, tutto. Dentro, fuori, all'esterno, all'interno, e qui e là, e te li trae, te che tu. Sì, non arriva forte, intendiamoci, arriva bassa, però arriva. Sì, però quella me ne hai già. No, niente. E io sono a 5. Io proprio liscio liscio, questo baracchino non mi prende quel REM, è difficile. Rita? Io ti ascolto, là, ti ascolto ancora a me. Dove siete diritti? Professor Alghero? Ah, e io adesso vi chiedete in casa, amico. E l'ho fatto. No, perché poi per i bambini c'è freddo. E adesso scende, anche se sono allungate le giornate, perché prima alle 5 c'era buio pesto, però a una certa ora poi scende la brina, cosa, c'è freddo. Buona serata. Se vuoi riprendere dopo riprendi, non c'è problema. Avanti, Luca. Ciao Riso, che sta ascoltando, alla prossima. Te lo dizendi, cosa non c'è più, boh. Non c'era Giovanni, non c'era Pierpaolo, boh. Già c'erano, ma non hanno risposto più. Pierpaolo? No, non rispondo. Antò. Mia, mi intende la cittadina di Porto Torres? Io ti intendo a dire. Tu lo vuoi, ti intendo. Mi toccai. E in un senso, lo usati l'intendo? No, lo spedriato, so. Direzione Porto Torres. Cappa. Andaene. In questo si di casa, no? Nel domo, senso. Via, hai non preso del domo, te. Cappaga. In giretta, a pesso ci stai andando. Fatto i succhi. Non ci abitano i succhi, li ha prodotto. Tu. C'è il figlio che stavano lì a produttore. Ah, il figlio. Boh, e vabbè, non ho sbagliato. Luigi. Io già, sentendo sto, mi è andato qua a produttore ad accompagnare mia nuora con il bambino. Ah, cappa. E la moto venuta c'è sto figlio? No, la moto l'ha venuta e c'è il moto, adesso lui c'è giù la polatore del moto, capito? Kappa, quella grossa è quella... Ah, tutta bella brina, tutta bella gigillata. Kappa. E invece l'ha già dimessi mesi dentro il garage, cioè che era ferma, ha detto... Quella settimana scorsa l'ha stavato operando, a scendere giù la polatore se... E se lì non sta, non già. Papà, mi fa col fratello a lavorare e stava facendo il moto, stava viaggiando il moto, da produttore da Ottano. Sì, quel tratto lì è bello, dove c'è Marini, lì, una bella tirata. E io mi sono passato a questo, a Eliuri, mi sono passato camminando a chissà che te la tengo. Quelle sono molto belle, ma... pericolose, bisogna andare lì. E gatti. Oh, io quando me la stavo prendendo, me la stavo prendendo la strada. Se volevo prendermi l'R1, mi piaceva un bel. È stata mia moglie che non ha voluto. Ma meglio lo scooterone, guarda, lo scooterone, certo me la fosse meglio secondo me. Infatti, ma io dove mi siedo poi quando andiamo in giro e cosa? Se devo venire con te a fare commissione e cosa, dove te la metti la roba lì? E anche quello già è vero. Lo scooter è più comodo, più pratico. Più comodo, la sella più larga. È positivo, positivo. È anche più sicuro di quello, mi sembra. Oh, anche quello che ti ha fatto sempre un brutto a te, però va bene, più sicuro di quella lì, la moto, io ti però, dai. Sì, vabbè, quello lì è stato perché era regolato male il coso del freno di davanti, come ho toccato il freno, eppure io ne stavo uscendo da un'altra moto fresco fresco, non è che non si abitua, come appena appena toccato mi ha inchiodato la moto e mi si è girato il manubrio, per quello sono caduto, anche perché quello lì ha frenato di colpa, che se no non me l'aspettavo, capito? Stavo facendo la fila per andare al semaforo, è scattato il rosso, questo ha frenato di colpo e mi ha fottito. E vabbè, comunque, grazie a Dio, è andata bene, dai. Un bel po' di danno, 600 euro di danno, ma me la sono cavata perché sono stato pignolo io e se no si potevano anche verniciare le carene, ma le ho volute cambiare tutto, visto che la moto non c'era manco un mese, ha toccato solo le carene perché è caduta la ferma. È positivo, positivo, sì, ma ti arrivo sempre, dai, non è troppo d'accordo. Sì, che mi arrivi lui, ha voglia, mi stai prendendo in giro. Lucariello, quindi ti ascolti. Ha detto un attimo, deve essere facendo qualcosa lì. A positivo. Comunque penso di sì. E tu come mi ascolti in quelle zone? Va bene, già ti ascolto bene, ricevo bene. Ma mi ascolto un'altra antenna adesso sotto, dai. Sempre piccola, però... La tua, le zone, quelle antenne lì. Ma tipo quella lì, dai. Quella non era caricata. Può portare in giro, me lo puoi chiamare, dai. Come ce lui, va? Che c'è la carica. Lui va non va bene, lui. Ti sto dicendo che arriva anche 9:10 da cose da Monterraso a Sassari, 9:10. Arrivano bene, senza nulla, senza nulla sotto, con 4 volte dell'apparato. No, non è negativo, ti sento. Lo so, comunque già è un po' negativo perché sei giù verso il porto, sì, ti do ragione. No, no, vai bene, vai bene anche lì. Chi è che chiama? Avanti. Con Luigi Vulcano che sta scendendo a Papatango. Luigi, l'ascolti a Rita. Attenzione, Luigi Vulcano, se ascolti a Rita. Ho negativo già, adesso sono in via Alpieri, sono, sono in via... Qua non si sentiva nessuno, però so se mi stanno aiutando anche in giro. A via Alpieri... Pagato, che Porto Torre zona vecchia, dentro sul comune, quella zona lì. Comunque ti sento lo stesso Luigi. Non ti senti Rita? Dice che a Porto Torre dietro il comune, lì, quella zona lì. Da via Torre Sacchi scende una riuzza lì, delle mie alfili quella lì. Capaga Bridge. Oh, non ci sente più, non ci sente più, deve essere zona d'ombra. Capaga, comunque via Alfieri è una zona negativa sicuramente perché ci sono palazzi grandi, eccetera, eccetera. Dove siete adesso? Kappa di rientro da a casa di mamma. Kappa che sono già tutta la settimana che non prendo, perché l'influenza è la polizia. E bisogna andare, non bisogna mai dimenticarsi dei genitori, mai. Io ti dico una cosa, quando mamma era all'ospedale lì, e ho detto basta, sta meglio, adesso tutto quanto. Per un giorno non sono andato e la notte mi ha telefonato della musa, adesso quanto me ne sono pentito di non essere andato. Quindi i genitori è sempre meglio andare a trovare. Anche mia moglie va sempre, la verità, io no, mia moglie sì. Io a casa dei miei suoceri va a Natale, a Pasqua, alle feste. Poi ci sentiamo le prossime, già, che sono arrivati. E io là, buonasera. Ciao, ciao anche al tuo beneamato marito. Cominciamo già. Ciao, ci sentiamo ste. Buonasera. Avanti Luca. Luca. Luca. Luca. Luigi è arrivato, sì. Quindi facendo così, adesso sto salendo. Adesso sto imparando un bel. Aspetta, ecco, guarda, è al massimo. Di 9, attenuato. Quindi è 9, adesso. E qui siamo, no? 9. Qua. Ci arrivo. Dove è che sta? La luce sta a posto. Sta a posto, aiuto a fare. E allora sto passando. Come 9? Solo 9. Attenuato, attenuato. Con l'attenuatore del segnale è tutto chiuso. C'è acqua, c'è a fondo scala, parla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto sto arrivando? Adesso vediamo. Sei praticamente sul 3 del più 30, avanti. È ancora un 3, non mi fa così. Non vedo, lo faccio un po' così, acceso. Diciamo, già tutta andata bene. Ehi, aiuto. C'è tanto l'uomo aspettava la chiamata per andare a pescare. La pagata! Poi di lancetti andiamo a farci, però devo passare a Luigi però. Iaia. Ma con chi stavi parlando? E tu come vai a casa? Ieri. E dice? Ehi, allora a chi? Non sono a casa. Sono fra PM di Nadia e siamo qua sul monte. Yeah. No, ma guarda, in confronto alla facendo prima è un quarto di lavoro, prima facevo lo stesso orario, perché non si è portata a quell'ora. Però sai, poi c'è solo il corso, mi aspettavo sempre alle 6, le 7, le 8, poi quando andavo in corso mi aspettavo, una volta mi accompagnavate, non so di cui. Ascolta, ma quanti anni ci vedi giù a Brunanietta? Quasi due mi sa. E ho pagato tutto, sì. Sì, ho voglia. Non mi volevano pagare, no, non mi volevano pagare perché praticamente loro non si sono resi conto che gli schiorari per me erano il coltello, era il coltello dalla parte del manico, dalla parte mia del manico, però. E non lo sapevano perché non capivano niente gli schiorari. Io ci avevo tutte le ore, tutti i giorni, lavorativi, tutto quanto. Poi quando il commercialista gli hanno detto, ma voi volete fare questa manovra qua? Ebbene, siamo sicuri che il dipendente non abbia la prova perché per farsi i soldi che veramente hanno fatto per questo sono più meno. Perché io me ne sono andato via senza dare preavviso, perché mi avevano fatto una canottinata. Ah, me ne hanno andato via proprio alla fine del mese. E non mi volevano dare la liquidazione per quel motivo lì. Quando poi gli ho mandato la lettera dall'avvocato con tutte le fotocopie degli schiorari, mi rivolgevano indietro. Cosa vuoi tu indietro, mio ripugnante? Tu non mi dai distinzioni, poi ti li do. Anche lì già ne masticavo più, eh? A voglia, partivo tutte le mattine alle 3:30 da casa, poi alle 4 ero lì a casa, e facevo il cambio e ho fatto qua a casa. Il lunedì fisso ero in corso. E lì, quando andavo in corso, che mi alzavo più o meno sempre la stessa ora, ma sempre l'anno. Tanto comunque sempre alle 7 partiva la nave da sopra terrestre. E poi niente. Durante quanto avevo lo stipendio di 1000, ci arrivavi? No, non ho mai oltrepassato, sono sempre stato intorno ai 900, 950, 980. Mi sa che qualche volta l'ho passato, no, quando è? L'ultima volta, mi sembra che mi avevano dato 1100 euro. Però non c'era verso il controllo, ma ne mangiavo tutte in impasti, telefonate, benzina, facevo 50 euro di benzina al mese. Ti credo, ma ci dice due passi, vabbè, sono di meno, però sono puliti. Se vado a vedere, fatti il conto, guadagno più di 10 minuti di uno che fa 8 ore, perché ne prendo quasi 700, forse mi sono avvicinato. Mario, lei che sto venendo? Sì. Tre, allora, 4 giorni. Beh. È un casino. Ti capisco, io vabbè, quando andavo a consegnare i giornali prendevo 1.000.000. Cazzavo le 2, allora me dovevo essere giù, dovevo preparare tutti i giornali, farmi la pedana. Prima iniziavo con i quotidiani e poi con le riviste, tutto quello che c'era da caricare. Un casino va, il furgone carica a morte, un ducato pieno a bocca di giornali, con 1.000.000 al mese. Tu conta, fumo, le sigarette, benzina alla moto, le mettevo, no io non le mettevo. Poi colazione tutte le mattine, cosa mi rimaneva? Niente, dovevo avere qualcosa a casa, no? Non dico tutti, però avevo qualcosa a casa lo devo portare. Non guadagnavo niente, nulla. Solo andavo alla scusuria per non farmi mancare quelle 50.000 lire in tasca. Fanno anche 40, là, fa anche 40. Però non c'era, nel guadagno non c'era. Assolutamente. Poi una volta ho capitato che così non si vedeva più un cazzo, troppa brina l'ascesa, non volevo niente, tutte appannate i vetri. Ho fatto le trovaccia, anche a motore spento, motore acceso in folle, ho toccato la macchina del padrone del capannone, mi è costato la belletta di una Clio Williams, color blu metallizzato mi sembra, comunque la metallizzata, se non mi ricordo se era grigio o blu, non mi ricordo perché ero talmente nervoso il giorno, ma me l'ha fatta pagare di tasca, infatti mancavano pochi giorni a ritirare lo stipendio, infatti ho detto, ma te, 300.000 lire, lo bugia, no 350. Infatti ho detto, ma te che ti devo dare, questa qua è la principale, ma te che ti devo dare della macchina? Purtroppo la macchina 300.000 lire di danno, cioè, ma te la sicurata non si può fare, no, se faccio la sicurata non mi aumenta. Vabbè, dammi, arriva e io me ne sto andando, no, ma troppo infatti non posso fare, ma ti pare io tocco una macchina e me la devo pagare di tasca, ma tu sei pazzo. Allora lì, poi se me ne sono andato. Va bene, e lui mi ha detto che gli aumenta, e mi ha fatto pagare i danni, mi ha fatto pagare i danni, 300.000 di tasca, no, sono bugie queste, faccio con culo lì Angeli, va, culo, guarda, che non te ne dico, io lavoravo la lunedì alla domenica, la domenica facevo solo quotidiani e basta, facevo sempre lo stesso giro, Sassa, Risorso, Senno, lì a Platamona. Ma c'era qualcuno che stava chiamando per caso? Sandro! Boh, non riuscivo a capire chi era. Ah, faccio la compagnia di Luca, a Sassa. Vabbè, ero su 15, c'era anche Sandro. No, cavalli, no, no, niente, era troppo piatto il mare, no, quando è così non mangia. Poi a quanto si è visto l'acqua era turbida. Quando è così non mangia, perché non vede l'esca, diciamo, là. Chiamiamo la esca, la totanara. Non c'era nulla. Poi abbiamo fatto un paio di lanci con gli americani, ma niente, non è che l'ha toccata. Proprio era del deserto il mare. Dipende. Se trova lì, trova là. Vediamo un po', Alessandro. Alessa. Si è perso. Qui per la giri, dai. Luca, mi sono spostato un attimo su 15 a chiamare Alessandro di lì che ero qua. Ok. Anzi, Lino. No. Buonasera, ben sentito, sei Basso Basso, Santiago 2. Ma sei in movimento? Sì, ce l'hai. Ok. Ma gamba, riprendi con la piega. Sotto il 5, certo. di Cito Power. E lui dice, Santiago 5 Radio 3. Praticamente lui la radio sta da tramite lo Smith. E lui guarda le dove se guarda lo Smith e dice, ma dai, dai. La scena, raga. Ehi, ha tutto Roger qua lui, 9 più 10, KK. E che stava ridendo, Nadia, Angeli? Ho detto a fanculo. Di sicuro. Ehi, un'altra... Station. Positivo. Vai a pulire, Nadia, la macchina ogni tanto, la tua fidanzata, eh. Ciao Cavallino, ciao Lino, Vabbè, buonasera. Sandro, ci sei? Sandro. Eia, sì, Nadia. Sto aspettando. Però siete parato. Sono, aspetta. Sceso l'accesso. Aspetta che saluto, dai, GG. dici, sennò poi la macchina non mi sentono. Niente, dai, lui, noi stiamo arrivando, fatti trovare. Ciao, Angeli, ci sentiamo un altro momento, domani più tardi, adesso rientriamo presto. Lasciamo tutta domani, ciao, una dieta, buona serata e alla prossima. Ciao! Campa di positivo, dai, ce l'ascolti, buon tutto, buon quelletti e ce l'ascoltiamo da aspettare di sentire, dai. Brava, gamba. Ok. A te, Luigi. Ieri io ho sentito Luigi, sei tu, io ti saluto. Ho sentito solamente Luigi, salutoni Angeli, saluto anche Nadia che non ha sentito frutto. Ce ne ricordiamo le migliori, io ho un problema a ascoltarti qua, Angeli, Gamba di positivo, dai, non ci sono problemi. Gamba, ok, dai. Positivo, basta ti ho copiato, dai, non ci sono problemi, ho capito. Ciao Angeli, ciao Nadia. Ciao Luigi. Sì, tu. Che, c'è un segnalone, però non c'è il radio, mannaggia, ti chiedi chi è. Che è col break, avanti. Avanti il break, basso basso, ma ti tiro fuori, avanti. Avanti che? Va benissimo. Ma che radio è questa? Perché se sei a casa tua, stai facendo le prove a casa tua, tu mi arrivi con la radio molto migliore da casa tua, solo non so che apparato ti stai operando tu adesso, No, non sono a casa, Gigi. Sto uscendo con un tornado. E secondo me si trovi, però il segnale è molto alto, perché sei un Santiago 995, fra. Capito? Quando tu c'è un segnale del genere, la radio deve essere bella squillante, capito? Gappa. Via. Molto alto, butta via. Vedi, lui sta uscendo? No. Con la radio più alta della tua, con appena un pelino di segnale in meno. Però la radio è più forte, capito, fra? Pagava. Oh, bubu. Ascolta, lui, questo è la vola. Segnale 7, oscillante 9:20. Io l'ho messa a poc'anzi qua a Ottava e E avevo problemi di spiccioli pure io, della verità. Allora, siamo andati con, non avevamo spiccioli, e ne ho messo 20 euro e ne ho messo un po' nella moto e un po' ne ho messo nella macchina, io non avevamo spiccioli, dai. Dai, a chilometro di spalta, prega. E ne avevo pure un po' di crusci, Vabbè dai, io frattempo bevo un goccio di mirto. Vediamo un po'. batteria, simbolo volt. Sì. OCG. Sono un po' no? No? Dove cavolo? Volo trattino lungo alternata, accetto on off 50, 250, 50, 10, 2.5, AM punto trattino blu. E poi invece c'è VCA, tensione alternante, rete casalinga, simbolo volt, vediamo un po'. V in pieno, VAC, vedi qua, e c'è qua sotto, sì. C'è segnato. Poi viene resistente simbolo ohm. E vediamo i suoi puntini blu. Vedi, quest'altro adesso io ho preso l'ancetta, qua c'è scritto batterie, volt, nov, 1.5, test, e ci sono dei trattini dove metterlo, capito? Positivo, poi vuole per controllare la tensione di 13,80, aspetta, guarda bene, tu con quello lì devi controllare le 13,80 dall'alimentatore, devi mettere il più va bene al più, il meno al meno, e lo devi mettere VC dove c'è proprio un 20, c'è un 20, un numero 20. No, UC non c'è, qua c'è OHM ADJ e c'è RX10, RXK1, poi c'è 5, nell'altra parte c'è 500, 250, 50, 10, 2,5. Questa scritta UCC non ce l'hai tu? UCC no, c'è un V il simbolo poi diciamo della corrente. Positivo, e comunque deve andare sul 20 e rimane sulla destra del coso, sulla destra, girando da off e sopra, fai off, e devi andare sopra il 20 e ti dà il coso della corrente 12 volt quando c'hai di coso. Capito? Questo cos'è? Apparato CB. L'ho messo e date cose si possono misurare, ma è spiegato qua la corrente 220, sì. La 220 lo devi mettere a 200, a 200 sotto dove c'è il 200 e c'è la 220, la corrente lì. Ne ho preso un'altra, com'era ACV? Siamo andati a vedere aspetta un secondo. Allora qua c'è, in questo c'è scritto così, c'è scritto VCC, è per controllare la tensione della batteria e devi mettere a VCC e sul numero V, capito? Luigi, Ea, ma lo sai che manda laterale, ti ascolto come se fossi qua, perfetto, tutte le bande laterali sparte. Ma entro su tutte le bande laterali? Eia. Se non esibi che deve esibi, ti ascolto perfettamente. Come mai? Ah, non lo so. Ci avrai spugnato. Poi dopo che ti dice, mi senti anche sugli altri canali con questo? Se metto 10 in banda laterale, USB, USB, ti ascolto come se fossi in questo canale, infatti pensavo fossi in banda laterale. Positivo. E poi stranamente nel banda laterale sai che non è molto chiaro, che bisogna sempre chiarificare cose, invece tu arrivi proprio limpido, sembra che sei lì. È positivo, non lo so, io questa è la solare 48, sono sul 10 normale io, Gianni, sul 10 normale. Ma io sono sul 10 normale adesso, da qui. No, io se tu stavi parlando non ti sentivo, è sul 10 in banda laterale. No, in banda laterale non stavo parlando, stavo solo ascoltando, e ah, che strano, lui ci ho sentito prima sul 10 normale, adesso sulla banda laterale, prima in USB, poi nell'USB, che strano, Banda laterale a vedere. se ti sento, se sento gli sfratti, riprova a vedere. No, niente negativo, dai. Sei tutto strano, come ti ascolto normalmente quando sei banda laterale, dai, che sono io nel canale, dove sembra la stessa cosa, Gigi. Sì, ja. Stiamo arrivando, siamo qua, carico di tempo abbiamo perso. 5 euro, tu ci credi? Gigi, no! Cazzo, dimmi tutto. Io controllo, lui, com'è? No, stai un innesco c'è sotto, mi sembra, non mi vorrei sbagliare, se non c'era qualche altro mutolando. Ma fa vedere. Ciao passaggio. C'è una pernata, un innesco sotto c'hai. È innescato Daniele, abbassa. Abbassa l'amplificazione. Ancora? Facciamo, prova, fa un passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È innescato. E adesso? Poi c'è una portante che sta a parlare. Oh, non c'è più a posto. Dove c'è il cariello? In aria 131, GAP. Ho parlato o se c'è meglio? Sì. Aspetta, Gianni, dai un controllo. E che cosa, segnale o radio? Tutti e due, no, il segnale e il radio. Segnale 940. La radio è 4, là. È bassa la radio, già, aspetta. E così, cosa succede? Niente. Ah, se smette di rimanere un po' gaffaro, c'è uno, Cazzo, tu dove quanto arrivi a te? No, ci metto c'è una busta 9.50 o 9.30. Cosa, lui? Però smette, secondo me è imballato. Tu dove quanto ti arrivano? Cosa è imballato? Chi mi arriva basso, arriva a basso. Ma cosa c'entra? Se mi arriva 9.40, ti arriva 9.40. Bene o male, qua tutti nei dintorni sono, tranne Daniele, vabbè, ma ci avrà sicuramente, cosa devo dire, tocco lo che ha, cioè ci avrà sicuramente Daniele attaccato. Guarda adesso, già, com'è? La radio? Radio e segnale mi serve. Adesso sei più basso, sei 9.30 e la radio mi sembra sempre la stessa, non mi sembra migliorata niente. Cava, cava, aspetta. E così già, cosa succede? Sì, appena appena sale, ma non di tanto, è poco poco. Proprio impercettibile. Cava, cava, qui non è bella forte la radio già. Cosa? Com'è forte la radio? No, è normale, non è brutta, assolutamente. È una radio abbastanza pimpante, però non è quella radio compressa, capito? Ma prima migliore la radio già. No, adesso va meglio, mi pare. Cavolo, ma le altre volte hai sentito migliore la radio? E una volta ti ho sentito con una radio bella, che te l'ho anche detto. Non mi ricordo con che apparecchio fossi. Comunque arrivavi molto bene. Cava, cava. Sì, anda bene. Ah, non te ne hai ascoltato tu, era col dato ne di più 5. E adesso ti sei allontanato, vero? Ho fatto qualche cosa, perché sembra più forte adesso. No, non ho fatto nulla, no, già. Aspetta, vediamo che faccio un'altra prova, dai. E allora è il modo che hai tu di parlare. Spegniamo questi baracchini, aiuto. Ciao Pierpa, la capabilità me la fai. Buongiorno. Via, e se mi si gado esci. E non ti stai mettendo in questa per noi? Non prendo più niente, basta. Ascolta, ma fischiando sta il tuo microfono. No, stai fischiando tu. No, lascia perdere. Il microfono fischia. No, negativo. Dagli la medicina in occhio, dai. Ce l'ho io la medicina qua. Vedi? Ho un po' di acqua vitte, un po' di uva sotto spirito, un poco di mirto, un po' con un'andata di vino rosso o bianco, e passa tutto, mal di gola e raffreddore. Così mi accavallano tutto. No, è così, no, che già fa bene. Ti sto dicendo che se bevo quella roba, che si bocca è subito. È positivo, comunque io quando sento mi sta pigliando un po' di gola e di coso, me la bevo un bicchierino di acqua vite, me lo bevo e mi bevo anche un paio di punch. E ti dico, gli fa bene, che fa bene il punch. Ma a me mi fa male però, non posso bere roba alcolica. Positivo, allora un altro discorso, dai. A me ancora non mi ha detto nulla il dottore, ma non lo so. Guai, guai, se dovessi dire di rompere lui, sarebbe nato a morte. Ehi, no, io sono con capo di vita, no, però, diciamo, qualcosa già me la bevo, non è che non me la bevo, mi già mi ho bevuto un po', mezza bottiglietta di mirto, già mi ha giovito, ieri l'ho fatto il mirto, l'ho fatto un po', e me ne ho già bevuto, guarda, c'ero sopra il tavolo qua, e me ne ho già bevuto mezza bottiglietta, e una bottiglietta che non ripeto, là, è l'ultimo che è rimasto, che... Non completavo la bottiglia, che mi ho messo la bottiglietta e mi ha detto che vedo che bitto. Ma è una bottiglietta da litro. ecco! Lemon crema e... Sa che pulla di lemon crema, dai, che c'ha il cuore dentro, limoncino alla crema, se che fila. E quelle da... C'è anche 75, tanto è. Che sa, vedi? Se mi vuoi... No, non 50, se mi vuoi bloccare la becco, questo che non lo becco. Prego, prego! Yeah. Io sono già. Sempre in duci. Parliamo una femmina. Una femmina però un po' scordata. Ma poi la scordatura. Già, guarda adesso, com'è? Ah, ma ti è presente. Non so tu cosa vuoi dalla radio, voi cos'è un microfono amplificato per capirci, dai. MD35 già, no, perché poco fa mi anche Gigi mi ha detto che la radio è leggermente bassa, al momento sono liscio liscio, ti sembra strano. Non è che sia bassissima, però per un amplificato non è tanto forte, ecco quello che c'è. Mi dici se c'è veramente ragione, perché è una radio, diciamo, che va bene, si sente, non è che sia, però potrebbe essere più forte. Poi il MB5 si può anche regolare. Calma, dimmi adesso come sono liscio già, dire il segnale. Prova. No, ho detto prova. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com'è? 9.35. Cavarava, va bene, là. Aspetta. Guarda adesso, già, come la balanza si toccò? Con un fischio è un po' più forte. Grazie. passi 9:10 già. E la radio come? Va bene, tutto K. Vabbè, Luca. Ma queste cose che ci sono dentro le butto o servono? Le butto queste cose. Gigi, no! Ma queste le ha tolte da dentro, le da dentro, non ci sono le dentro l'apparato, cioè, no, ho capito. Che ci sono, le mie ci sono dentro, gappa, gappa, perché c'è quella, dovrebbe quella bobina bruciata e sciolta, là. Dovrebbe esserci quella specie di bobina. Bobina non c'è, non c'è. Oh, vabbè, a tramate, caibile. Quelle due ragazze che abitavano vicino a te, Diana e Loredana. Diana. Sì, dove c'è quel cancello in legno, ci abitavano delle ragazze, due ragazze che ho conosciuto. Una si chiamava Liana e l'altra sorella, capelli neri, lunghi, neri, Loredana. Non so se ci hai mai fatto un caso. Tu hai detto Diana, Liana mi pare si chiama, Liana sì. Liana, Liana, e l'altra la sorella più grande è Loredana. Le conosco. Sempre lì abitano. No, da un pezzo non ci sono più. Quella dovrebbe essere, non so che zona sia, Liana dovrebbe essere sulla zona di non Livorno, no. Come fanno le marinaie, aiutami a dire dove fanno la marina, lì vicino a Carrara, cos'è Carrara, cosa si chiama anche? Ma ragazzi, con la Spezia deve essere. Bravo, la Spezia, là. Mi è venuto con Carrara, la Spezia. E l'altra dovrebbe abitare sempre nelle zone di qua, di Ottava. Eia. Comunque, complimenti per questo aggeggio, sto attazzando, è serio, Come hai fatto, veramente? Che l'hai assaggiato? Tappa di Roger, almeno hai sentito, assaggio, è buono. L'ho fatto ieri quello lì, è già quello che ci manca, l'ho già bevuto io, lo stavo bevendo io. Eia, è il mirto che lo prendi, da queste zone spesso, tutto mancione, credo. No, tu dice Luca, tu dice dove l'ho preso. Senta, campagna tua, Eia, sei rosso. Ce n'è ancora attaccata la pianta, la buglia. No, non l'ho fatto ieri, l'ho fatto. Allora ho messo a bollire, addirittura ho bollito 6 litri d'acqua con lo zucchero. 6 litri d'acqua, 6 litri, 6, 10, 10, 10, 12, 13 litri ne ho fatto. Ehi, ma non ce ne vuole molto di merda, no? Lo faccio, un paio di litri. No, io ne metto 600, 550, 600 grammi, dai, di bacche su un litro di mirto. Sai che non so, con ghiaccio a farlo, se non l'avrei fatto, tu procuramene un po', se provo a farlo. Tanto credo che sia così, no, si mette in mezzo all'alcol, si lascia, non so quanti giorni, macerare un mese. Lasciarlo almeno 20-30 giorni a macerare, dai, in mezzo all'alcol e poi va fatto, dai, va, come si dice, va messo a... Io ho il torchietto per farlo, diversamente non so come lo facciano, come lo schiacciano, come lo cose, io ho il torchietto, lo faccio col torchietto, capito? E su un litro d'alcol ci vuole un litro e mezzo d'acqua zuccherata, io ne metto 800 grammi di zucchero, che se no c'è troppo dolce, vedi che se non lo metto 900, io ne metto 800, quello come ti sembra? Sei serio, sei leggerino, dai, non è di quello ben pesante. Quindi allora in un litro di alcol tu ci metti quasi un bicchiere e più dai di quello grande da colazione di acqua, così zuccherata. Un litro e mezzo ce ne va d'acqua, un litro e mezzo su un litro d'alcol, un litro e mezzo d'acqua con 400 grammi di zucchero fatta bollire. Una giornataccia proprio di quelle prende qualche rimorso. Gaffa, gaffa. Anda, vai, dai, Luccarie, dai. Io... niente, dai, me ne vado su, dai. Me ne vado su a casa e... è rientrato pure il Paolo. Mauro pure è rientrato e me ne vado su a casa, dai.